i giovani in particolare, ma anche le altre persone che hanno frequentato la rassegna, in realtà di certe cose non sapessero quasi nulla, una conoscenza vaga di che cosa erano non tanto le leggi razziali, ma di quello che era successo ed è successo nel nostro paese. E quindi abbiamo fatto questa rassegna composta da film realizzati della conquista dell'impero a partire dal 1938, però abbiamo anche voluto proiettare alcuni film, in particolare film documentari realizzati più recentemente. Per esempio un film intitolato Oltremare di Loredana Bianconi, un film documentario molto toccante, vorrei dire, perché lei, la regista, scopre a un certo punto appunto di un suo zio che era andato a conquistare quel paese pensando di diventare ricco e come comunque poi era stato allontanato dalla famiglia. Abbiamo proiettato per esempio di Ettore Scola, Concorrenza sleale, proprio sul razzismo, che c'è stato anche a Roma, quello che cosa è successo, e altri film, alcuni quasi sconosciuti. Abbiamo proiettato un film che è stato poi presentato dalla professoressa Lucia Ceci dell'Università di Tor Vergata, Abuna Messias, un film particolarmente, secondo me, interessante, di un episodio forse poco conosciuto. Come è strutturato il volume? Cosa l'avete centrato? In due parti, cioè una prima parte di carattere proprio storico e una seconda parte invece che riguarda più la parte appunto audiovisiva e cinematografica. La prima parte è, credo, insomma, abbastanza interessante, la prefazione di Vincenzo Vita, il presidente dell'archivio, uno studioso che conosce veramente la storia di questo nostro paese e quindi che ha fatto una prefazione, introduzione anche sintetica ma molto interessante proprio sulle leggi razziali. E poi c'è appunto tutta la parte storica, partendo da Alessandro Triulzi, che ha fatto una specie di introduzione, presentazione. Alessandro Triulzi è uno storico, ha insegnato all'università di a Napoli per tanti anni, in particolare ha insegnato appunto la storia dell'Africa subsahariana. A parte che è l'organizzatore di tante iniziative per far conoscere quella storia, è una storia tra l'altro che ci riguarda anche adesso, perché tutta questa immigrazione anche che c'è dall'Africa verso l'Europa e verso il nostro paese ha anche quelle origini là, cioè le origini di un imperialismo orrendo che è andato lì, ha saccheggiato alla grande tutte le ricchezze di quel paese e ha lasciato soltanto una grande miseria e quindi le persone sono pure costrette a scappare. Ci lasci tutti i riferimenti internet per l'evento e per saperne di più sul volume? Sul volume posso continuare a dire che è stato editato dalle edizioni Sigi di Mario Papalini, che è un editore che da tanti anni pubblica gli annali dell'archivio, molto generoso e molto attento a tutto il lavoro che l'archivio stesso fa e quindi siamo molto contenti, anzi lo ringraziamo sempre. Il libro è già sul sito dell'archivio in PDF, naturalmente può essere consultato, può essere scaricato. Noi cerchiamo sempre di fare in modo che le cose che facciamo vengano viste e circolino, perché sennò tutto il nostro lavoro perderebbe di senso. Poi mercoledì c'è questa presentazione da parte di tutti i curatori, oltre a Alessandro Triulzi che ho già citato, anche Carlo Felice Casula, docente all'Università invece di Roma 3, e Giovanni Spagnoletti, docente di storia del cinema all'Università di Tor Vergata. Il libro uscirà però in libreria a settembre e poi può essere richiesto naturalmente all'archivio. La conquista dell'impero e le leggi razziali tra cinema e memoria, annale numero 20 dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, presentato mercoledì 24 giugno 2020 sulla pagina Facebook dell'archivio. Un saluto e un ringraziamento alla organizzatrice del volume, Paola Scarnati. Paola, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a voi, grazie mille. A presto. Con Roberto Casiraghi, uno dei curatori del progetto Torino Photo Tales. Roberto, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ci presenti quest'idea? È un'idea più